Sezione 1 di Il Decameron. Parte 1. Giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Emanuela. Il Decameron. Parte 1. Giornata prima. Di Giovanni Boccaccio. Proemio. Comincia il libro chiamato Decameron, nel quale si contengono 100 novelle in 10 di dette da 7 donne e da 3 giovani uomini. Umana cosa è l'avere compassione degli afflitti, e come che a ciascuna persona stea bene, a coloro è massimamente richiesto li quali già hanno di conforto avuto mestiere ed hanno il trovato in alcuni, tra li quali, se alcuno mai ne ebbe bisogno o gli fu caro o già ne ricevette piacere, io sono un di quegli. Perciò che, dalla mia prima giovanezza fino a questo tempo, oltremodo essendo stato acceso d'altissimo e nobile amore, forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe, narrandolo io, si richiedesse quantunque appo coloro che discreti erano e dalla cui notizia pervenne io ne fossi lodato e da molto più reputato. Non di meno mi fu egli di grandissima fatica a sofferire. Certo non per crudeltà della donna amata, ma per superchio fuoco nella mente concetto da poco regolato appetito, il quale, perciò che a niun convenevole termine mi lasciava contento stare, più di noia che bisogno non m'era spesse volte sentir mi facea. Nella qual noia tanto refrigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d'alcuno amico e le sue laudevoli consolazioni, che io porto fermissima opinione per quello essere addivenuto che io non sia morto. Ma sì come a colui piacque il quale, essendo egli infinito, diede per legge incommutabile a tutte le cose mondane aver fine, il mio amore, oltre ad ogni altro fervente, ed il quale niuna forza di proponimento o di consiglio o di vergogna evidente o pericolo che seguirne potesse, aveva potuto né rompere né piegare. Per sé medesimo in processo di tempo si diminuì in guisa, che sol di sé, nella mente, mal presente lasciato quel piacere che egli è usato di porgere a chi troppo non si mette né suoi più cupi pelaghi navigando, perché dove faticoso esser solea ogni affanno togliendo via dilettevole il senso esser rimaso. Ma quantunque cessata sia la pena, non perciò è la memoria fuggita dei benefici già ricevuti, datimi da coloro a quali per benivolenza da loro a me portate erano gravi le mie fatiche, né passerà mai, sì come io credo, se non per morte. E perciò che la gratitudine, secondo che io credo, tra l'altre virtù è sommamente da commendare ed il contrario da biasimare, per non parere ingrato, o meco stesso proposto di volere, in quel poco che per me si può, in cambio di ciò che io ricevetti, ora che libero dirmi posso, e se non a coloro che me aiutarono, alle quali per avventura, per lo lor senno, o per la loro buona ventura non abbisogna, a quelli almeno a quali fa luogo alcuno alleggiamento prestare. E quantunque il mio sostenimento o conforto che vogliam dire possa essere e sia a bisognosi assai poco, non di meno parmi quello doversi piuttosto porgere dove il bisogno apparisce maggiore, sì perché più utilità vi farà e sì ancora perché più vi fia caro avuto. E chi negherà questo quantunque egli si sia non molto più alle vaghe donne che agli uomini convenirsi donare? Esse, dentro a delicati petti, temendo e vergognando, tengono l'amorose fiamme nascoste, le quali quanto più di forza abbian che le palesi, coloro il sanno che l'hanno provato e pruovano. Ed oltre a ciò, ristrette da voleri, da piaceri, da comandamenti dei padri, delle madri, dei fratelli e dei mariti, il più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse dimorano, e quasi oziose sedendosi, volendo e non volendo in una medesima ora, seco rivolgono diversi pensieri, li quali non è possibile che sempre siano allegri. E se per quegli, mossa da focoso disio, alcuna malinconia sopravviene nelle lor menti, in quelle conviene che con grave noia si dimori, se da nuovi ragionamenti non è rimossa, senza che elle sono molto men forti che gli uomini a sostenere, il che degli innamorati uomini non avviene, sì come noi possiamo apertamente vedere. Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri li affligge, hanno molti modi da aleggiare o da passar quello, perciò che a loro, volendo essi, non manca l'andare attorno, udire e veder molte cose, uccellare, cacciare o pescare, cavalcare, giucare e mercatare, de quali modi ciascuno ha forza di trarre, o in tutto o in parte, l'animo a sé, e dal noioso pensiero rimuoverlo almeno per alcuno spazio di tempo, appresso il quale, o in un modo o in un altro, a consolazione sopravviene o diventa la noia minore. Adunque, a ciò che per me in parte s'ammendi il peccato della fortuna, la quale, dove meno era di forza, sì come noi nelle delicate donne veggiamo, quivi, più avara, fu di sostegno, in soccorso e rifugio di quelle che amano, perciò che all'altre è assai lago, il fuso e l'arcolaio. Io intendo di raccontare 100 novelle, o favole, o parabole, o istorie che dire le vogliamo, raccontate in 10 giorni da una onesta brigata di 7 donne e di 3 giovani nel pistilenzioso tempo della passata mortalità fatta, ed alcune canzonette dalle predette donne cantate al lor diletto, nelle quali novelle, piacevoli ed aspri casi d'amore ed altri fortunosi avvenimenti si vedranno così nei moderni tempi avvenuti come negli antichi, delle quali le già dette donne, che quelle leggeranno, parimente diletto delle sollazzevoli cose in quelle mostrate ed utile consiglio potranno pigliare e conoscere quello che sia da fuggire e che sia similmente da seguitare, le quali cose, senza passamento di noia, non credo che possano intervenire. Il che se avviene, che voglia Dio che così sia, ad amore ne rendano grazie, il quale, liberandomi da suoi legami, m'ha conceduto di potere attendere a loro piaceri. Fine della sezione 1.